la mamma che mi chiama e la sto preoccupata. Fumo sta nella culla, la luna vuole calma. Ma sono detto bip bip bip bip bitch, ma non sopporto bip bip bip bip bitch. La mamma che mi chiama e la sto preoccupata. Fumo sta nella culla, la luna vuole calma. Ma sono detto bip bip bitch e non sopporto bip bip bitch. Fame di sogni, yeah, yeah. La palmi la fumi, yaya, yeah, yeah. Sai che poi non ritorni, yaya, yeah, yeah. Vuole che vada scappa, yaya, yeah, yeah. Tutto hard, tutto amo, ma gatto, sa già scappi dei bisogni, yaya, yeah, yeah. Dopo il capo la te, fammi te, fammi te, basta che esce dell'ansia, mamma. Quella fame non fa, ma vive i sogni tutti i giorni. Fa la sorta come torni, non ritorni con la droga in corpo e soldi. Vuoi risolvo, ma risolvi, ma risolvi. Te lo devo dire oggi, anche domani che non ci siamo, se poi a bocchi. Che la tocchi bene ti dice che te la compri, una vita te quei monchi. Mamma che mi chiama e la sto preoccupata. Fumo sta nella culla, la luna vuole calma. Ma sono detto bip, bip, bip, bip, bitch. Ma non sopporto bip, bip, bip, bip. La mamma che mi chiama e la sto preoccupata. Fumo sta nella culla, la luna vuole calma. Ma sono tutto bip bip bitch e non sopporto bip bip bitch. Non sopporto questa bitch. Ricordi quando ero a scuola, monami. Ora sono come una droga, provami e mollami, wannabe. Pensi che quando mi followi ti immaginare tu che me lo swallowi. Io mi vorrei dissolvere, correre come un quarterback tra antidepressivi e film di Cronenberg. Ho casini da risolvere, prenderei la vita per poi riavvolgere. Scusa ma devo rispondere, c'è mamma che mi chiama da inizio settimana. Mi dice stai attento, tu fottilo, fatti fottere. Io mangio marijuana, se no l'ansia mi sbrana. Perché mi devo evolvere, un po' per me, un po' per non accorgermene. Di cosa non faresti per due follower? Quindi attenta, little bitch, principessa. Ma di chi potevi stare con il re, fai la commessa. La mamma che mi chiama e la sto preoccupata. Fumo sta nella culla, la luna vuole calma. Ma sono detto bip bip bip bip bitch, ma non sopporto bip bip bip bip bitch. La mamma